l'Equatore giunta nel Brasile. La novità, la cicca cicca punci, al varietà per casa nel cortile. Si canta sola cicca cicca punci. La gran novità brasilena, ma chi sa capire cosa vogliono dire queste tre parole? Bunci bunci bum bunci bunci bum bum, se splende il sol, se c'è la luna piena, ti seguo ignor quell'eco brasilena che vien da dove c'è la pianta del caffè. E cicca cicca bum, cicca cicca bum, cicca cicca bum, cicca. Ma chi sa capir cosa voglia dire queste tre parole? Bunci bunci bum bunci bunci bum bum, se splende il sol, se c'è la luna piena, ti seguo ignor quell'eco brasilena che vien da dove c'è la pianta del caffè. E cicca cicca bum, cicca cicca bum, cicca cicca bum, cicca cicca bum, cicca cicca bum, cicca cicca bum, cicca.